tiro fuori il mio arsenale con una violenza tale che mi trasformi in arma letale. Adesso vediamo chi veramente vale. Vuoi vedere? Rompermi il cazzo per te non sarà un bene. Non ti conviene. Ora mettiti a sedere, se stai lì seduto tu ti credi astuto, ma con l'hip hop hai sbagliato tutto. Arrivo nel valore, ti ha dato il benvenuto. Quello che ho ottenuto l'hai avuto, leccando il culo o chiedendo aiuto a qualche pezzo grosso. Nel tuo mondo lo rifiuto perché ora posso. Mi sono mosso come un avvoltoio, mi starò sempre addosso. Sono uno tosto, non mi sposto dal mio posto. Pronto a buttare la vostra carcassa dentro un fosso. Dal mio mondo sei lontano, ti travolgo come un uragano. Il tuo sforzo per difenderti sarà del tutto in vano. Dimmi se sei, dimmi se sei pronto per l'imparo. Ti sparo, le mie linee ti ho pesa. Solo attacco, nessuna tecnica di difesa. Sono pronto per la gran contesa. Ormai la corda è tesa, perché qui non c'è resa. Arrivano i balordi, sorpresa! Aggressione notturna contro chi ci disturba. Sentenza raturata tutta la ciurma. E facciamo la festa! E facciamo la festa! E facciamo la festa! E facciamo la festa! Missione impossibile! Un valore praticamente imprendibile! Imprevedibile, un suo probabile agguato! Incontrollabile, un suo attacco immediato! Miserabile! Dimmi se sei pronto per l'impatto devastante! Un balordo picchia duro, ci va sempre sul pesante. E come un esaltato assettato di vendetta, non c'è fretta, vigliacco scompatto. Credevi di farla franca, con sentenza i balordi la pagherai molto cara. Intanto c'è chi spara, cazzate a ripetizione. Aggressione, l'unico metodo che conosco. Sì, l'unica soluzione. Con chi vuole giocare con il fuoco, mi basta poco, per l'MC corrotto nessuno sbocco. Blocco, chi con me vuol provare a fare il doppio gioco? Doppia razione di mazzate, quando i balordi per le strade faranno le fiaccolate. Busseranno alla tua porta, e cos'è corruzione? Il verdetto è la forca! E facciamo la festa! E facciamo la festa! E facciamo la festa! E facciamo la festa! Sono rimasto scottato dalle cazzate di chi mi ha infangato, illuso e ingannato da qualche intruso che squazzava tra noi, che canta, canta e non si faceva i cazzi suoi. Non lo starò a guardare ancora per molto, rimango sempre lo stesso, non cambio volto. Con chi mi ha fatto un torto sono pronto anche a giocare sporco, ma senza commettere nessuno sbaglio, non me lo posso permettere. Cerco ancora uno spiraglio in mezzo a tutta questa merda, prima che la mia anima si disperda. La pessimista, ma non tanto da mollare il mio punto di vista. Io non me ne infischio e rischio, pur sapendo di essere preso di mira. So molto bene chi contro di me cospira. Sì, nella mia testa vige ancora l'immagine riflessa di chi voleva farmi la festa. Chi ha orecchie per intendere intenda. Ora si fa brutta la faccenda. E facciamo la festa! E facciamo la festa! E facciamo la festa! E facciamo la festa! Arrivano i balordi! Arrivano i balordi! Arrivano i balordi! Arrivano i balordi! Arrivano i balordi! Arrivano i balordi! Arrivano i balordi!